Oh, eccoci qua ad Aperitivo Ludico, nuova puntata, appuntamento numero, oh mio Dio, ormai ho perso il conto, mille migliaia di appuntamenti, no, dovrebbe essere il numero 9, ok? Come noterete in questa puntata a volte guarderò te che mi stai guardando e a volte invece guarderò giù, anche perché ho cominciato a fare il professionale scaletta di appunti, per parlare di cosa? Per parlare di Mars Colony, ok? Oggi parleremo di un gioco che mi è capitato di provare quest'estate con il mio amico Simone Micucci, che saluto perché ci segue sempre. Un gioco che parla di politica, ok? Lo fa nella fantascienza, prendendo le cose nostre, trasferendole in un mondo immaginario fantascientifico, tra virgolette, e quindi con questa scusa ci permette di essere liberi nei giudizi e nelle scelte morali, tra virgolette, ok? Questa scusa perché è più facile dire licenziamo 1 milione di persone perché è necessario su Marte, piuttosto che licenziamo 1 milione di persone in Italia, anche perché quel 1 milione di persone potrebbe essere gente vicino a noi. Ok, ma torniamo nei giochi di ruolo, in questo mondo immaginario slegato dalla realtà in cui passiamo del tempo per distrarci. Torniamo, intanto facciamo le cose serie. Mars Colony, cos'è? È un gioco pubblicato in Italia da Coyote e scritto da Tim C. Koppang. Per pronuncia fa solito schifo la mia, ormai lo sapete, comunque se mi state ascoltando o vedete lo sapete, ci siete abituati e tanti saluti a tutti. Farò un corso di inglese, se potete darmi dei soldi per pagarlo è ben accetto, ok? Allora, pubblicato nel 2010 in originale, qualche anno fa invece da Coyote Press in Italia, tradotto e pubblicato. È un gioco di un manuale di 46 pagine, costa 6 euro, per cui è anche abbastanza facile da reperire e da leggere, ok? È un manuale che nella sua semplicità alla fine fa quel che deve fare, anzi lo fa meglio di quanto dovrebbe, tra virgolette, o meglio di altri manuali più grossi. Perché? Perché in 46 pagine voi avrete tutto il gioco e potete leggere il manuale come ho fatto io con Simone mentre giocate, cioè voi iniziate a giocare, cominciate a leggere il manuale e piano piano abbandonate il manuale quando le meccaniche saranno spiegate completamente e proseguite nel gioco. Bene, ma perché è figo questo gioco? Perché ve ne parlo? Perché oggi in Aperitivo Ludico io, Marco Andretto, ve ne parlo? Perché questo gioco con alcune semplici meccaniche riesce a ricreare quello che sarebbe se tu, giocatore, tu che vuoi provare questo gioco o tu che sei al bar e dici ah, se io fossi in politica farei ecco quella cosa lì, se tu fossi al posto dei politici cosa faresti? Annunceresti 1 milione di posti di lavoro? Diresti che le scie chimiche fanno del male a tutti quanti? O che i vaccini non sono cose da fare, da usare, perché i nostri bambini crescono meglio senza? Diresti un mare di cazzate? Oppure cercheresti di fare quello che ritieni giusto? A volte io ho quest'idea che non sempre si può fare quello che si vuole. È bello dire io farei, o è bello dire vorrei un mondo in cui tutti hanno soldi, non ci sono tasse, un mondo in cui tutti hanno un lavoro e hanno soldi da sperperare lavorando poco. Questo gioco vi permette di capire perché non è così semplice creare un mondo del genere, ok? Neanche fottere la gente e pensare al proprio tornaconto e basta è la cosa da fare. È faticoso, ci vuole un compromesso. E questo gioco su Marte, perché il gioco è ambientato su Marte, vi permette di farlo. Su Marte c'è questa colonia in crisi, ok? Ha dei problemi che vengono decisi all'inizio del gioco. E arriva il salvatore, arriva un certo un PG che si chiama Kelly Perkins. Questa persona è il salvatore della colonia, viene mandato lì per risolvere i problemi della colonia. Perché vi ho detto un uomo o una donna? Perché il nome è stato scelto apposta perché possa rappresentare sia un personaggio di sesso maschile che un personaggio di sesso femminile. Alla fine cambia, tra virgolette, poco a livello di gioco, però il giocatore che lo interpreterà può scegliere. Ah, a proposito di giocatori, è un gioco per due giocatori, ok? Per cui vi basta trovare un amico, magari per una serata. Sì, è un gioco che si conclude in una serata, alla fine se andate proprio lenti magari ci mettete 6 ore, quindi 2 serate, oppure un pomeriggio lungo. Però io vi dico che nella mia giocata, leggendo il gioco, scansa fatiche come sono, in 4 ore abbiamo concluso, ok? Non conoscendo il gioco prima. Bene, siamo a 6 minuti, piccola pausa e poi seconda parte di Aperitivo Ludico. Cari gentili ascoltatori, il nostro partito intende proporvi un sacco di ore a grattarvi la pancia, soldi per tutti e, in men che non si dica, la nostra nazione si risolleverà. 1 milione di posti di lavoro. Armiamoci e partite! Ok, scusatemi, dopo questo mix di da piccolo dittatore dei fannulloni, ritorniamo un attimo sul cose un po' più terra terra e un cose un po' più concrete, ok, meno fanfaluccole. Bene, dicevamo, il gioco in cosa consiste? All'inizio del gioco viene creato il salvatore e la colonia, ok? La colonia viene creata seguendo i partiti che esistono veramente. Cosa vuol dire? Non è che dovete andare a analizzare i partiti, però il gioco prevede che all'inizio scriviate, ognuno dei due giocatori scriva su dei foglietti cosa gli fa paura della situazione politica che lui pensa ci sia. Per esempio, quando è successo a me, ho scritto sui foglietti il fatto che i politici lavorassero più per il loro interesse che per l'interesse della popolazione e dello Stato. Ho messo che non c'era sicurezza per il posto di lavoro e che c'era una casta politica. Ho messo anche il fatto dell'ignoranza, che questa casta politica, cioè dei politici che volevano mantenere le loro sedie, sfruttassero l'ignoranza della popolazione per farlo, ok? Per esempio, queste erano cose mie. All'inizio del gioco queste cose portano in gioco cose che i giocatori sentono e quindi legano a doppio filo la fiction, cioè la finzione creata, e ciò che ogni giocatore sente, in modo che la giocata sia più sentita, ci sia più ciccia, ragazzi, più ciccia, perché un gioco dove non c'è niente di interessante da giocare, alla fine che te ne fai? È come guardare una partita di 2 squadre che non ti interessano, è come visitare una città nella quale non hai voglia di vedere, cioè che te ne fai? Se vai a visitare Ciuppamello del Minchia in provincia di Tal dei Tali, cioè, perdonatemi abitanti di Ciuppamello del Minchia, ma se io volevo vedere Venezia andavo a Venezia, ok? Quindi un gioco che mi interessa giocare e ci metto dentro cose che mi interessano giocare, ok? Quindi parte da questa cosa. Poi i partiti vi dicono nel gioco di inserire da 2 a 4 partiti immaginari, si chiamano partito rosso, partito blu, eccetera, eccetera, partiti che prendono spunto da partiti che conoscete. Nella nostra partita, mia e Simone, abbiamo inserito qualcosa che somigliava alla Lega, qualcosa che somigliava a Movimento 5 Stelle, qualcosa che somigliava a come si chiama, gli altri Forza Italia, della sinistra, prendendo le caratteristiche che noi vedevamo di questi partiti, per esempio la disinformazione, la prepotenza, lo sfruttamento dei mezzi di informazione, la disorganizzazione all'interno, la frammentazione all'interno, tutti i partiti che avevano caratteristiche che prendevamo dal coso. Perché? Perché è più facile. Naturalmente sono stereotipi, non vogliono rappresentare la realtà, però è un po' una rappresentazione sommaria che ci aiuta a creare delle cose che interessano, ok? Una volta creati i partiti, Kelly arriva e il gioco prevede che ci sia un legame di Kelly con qualcuno all'interno, un amante, un genitore, qualcuno che però ha dei problemi, una malattia, indebitato, un vizio, qualcosa che possa cominciare a creare una spaccatura in quello che Kelly deve fare. Sarebbe bello che Kelly arrivasse con una vagonata di soldi dalla terra e dicesse: bene, siamo a posto ragazzi, che poi soldi. Questo ci lega al passo successivo: non sempre i soldi risolvono. Perché? Perché si creano delle carenze, si creano dei problemi, delle minacce all'interno della base spaziale su Marte, ok? Questi problemi possono essere che manca l'acqua, possono essere che manca il cibo, disordini sociali, problemi razziali tra marziani e terrestri, se ne creano tre, ok? Queste minacce hanno dei valori, ok? Attraverso le meccaniche del gioco questi valori possono essere incrementati, cioè diventare più problematici, o risolti portandoli a zero, ok? Attraverso le scene, attraverso il tiro dei dadi. Le scene permetteranno di costruire una storia, i tiri di dadi permetteranno di mettersi in gioco, usare la componente di gioco del gioco di ruolo di questo gioco di Mars Colony per cercare di risolvere il problema mettendoci dentro un po' di rischio e portando a un finale che vedrà il nostro salvatore Kelly Perkins risolvere i problemi e andarsene da salvatore, o rimanere da salvatore della patria, oppure essere preso a pesci in faccia e pomodoro in faccia. Ok? Non sempre la politica è giusta, e giocando questo gioco scoprirete quant'è difficile accontentare tutti e risolvere tutti i problemi. Molte volte si dovranno un attimo mescolare le carte o bluffare, ma non sempre questo bluff andrà bene. Perché? Perché c'è una meccanica nel gioco che prevede che gli alterini vengano scoperti, c'è la stampa, ci sono un sacco di cose che possono andare male. Ok? E a questo punto mi chiedo, voi sareste in grado di risolvere i problemi della colonia su Marte? Perché è questo. Quindi trovatevi un amico, un compagno di giochi, e in una sera provate questo gioco in cui scoprite le difficoltà di fare politica con un semplice gioco da 46 pagine. Meraviglioso, essenziale, bellissimo. Perché quando vi troverete in mezzo con cose che conoscete e una fiction che avete costruito voi, sentirete quant'è interessante e quanto avete a cuore il risolvere questo problema, anche senza un orco da 50 punti ferita da ammazzare, magari un politico da 50 punti ferita da ammazzare. Nella nostra giocata c'era un personaggio che guidava una frazione che ce l'aveva con i marziani. era bellissimo interpretare, da parte mia, che io facevo i rompicoglioni tra virgolette, quello che metteva i problemi dentro, interpretare questo personaggio che spingeva Kelly Perkins a diffidare dei marziani perché erano loro il problema, perché rubavano le nostre donne e i nostri posti di lavoro. Io ritorno in campagna politica per convincere i miei peluche a votarmi. Ci vediamo tra un attimo. Questo, tu, Rossetto, sarai il nuovo ministro degli interni su Marte, quindi ti dobbiamo spedire su. Ok, convinto l'orsetto, torniamo a il gioco. Mars Colony, ok? Affondiamo un attimo le mani più a fondo in questo gioco, ok? Andiamo a scoprire cosa lo rende così efficace in quello che vuole fare. Intanto il gioco ha una cosa molto affascinante e chiara, ok? La divisione in scene, ok? Vi sarà capitato quando giocate di ruolo o anche quando guardate un film di notare che la storia ha diversi tipi di scene, ok? Di scene in cui i personaggi si confrontano e parlano e quindi approfondiscono la loro personalità, cioè trasmettono allo spettatore o agli altri giocatori la propria personalità, e scene in cui mandano avanti la trama, ok? Perché sconfiggono la minaccia, perché fanno un piano per sconfiggere la minaccia, insomma, a volte le due cose si confondono, ok? Perché magari mentre il protagonista spara con la pistola piu piu al nemico, ti racconta anche i cazzi suoi e quindi le due cose si mescolano. Però in generale la suddivisione potrebbe essere abbastanza chiara così. Perché dico che il gioco fa una cosa figa? Perché suddivide queste cose, ok? All'inizio, al termine di ogni scena, ok? Quando si andrà a decidere la scena successiva, si potranno scegliere tre tipi di scene, ok? Una scena, la scena di riflessione, la scena di opposizione e la scena di progresso. La scena di riflessione è quando il personaggio... io sono Kelly e tu sei la mia amante Clarissa. Clarissa, non so cosa sto facendo di bene su questa colonia, perché ho appena venduto le mucche marziane, sì, quelle coi tentacolini verdi che succhiano a Venere, oppure le ho mandate sulla Terra e non so se ho fatto bene, perché ci sono i drogati su Marte che mi avrebbero dato 50.000 voti in cambio di quelle mucche che succhiano. Ok, e questo svela un po' il personaggio. Oppure scena di opposizione, in cui la minaccia pesta duro. La minaccia è l'altro personaggio, quello che non è Kelly. Pesta duro cosa vuol dire? Esempio di scena, ok? Bene Kelly, sei nel tuo appartamento, accendi la TV e vedi la TV che annuncia che la poca acqua che c'era è stata... colpita da un attacco terroristico, ok? Le cisterne sono state fatte esplodere, l'acqua è stata buttata fuori dalla barriera che vi separa dal vuoto dello spazio e quindi non c'è più acqua, non c'è più acqua su Marte per causa di questo attacco terroristico. Senti il telefono squillare, i tuoi ministri, la polizia eccetera eccetera ti chiede che cosa fare. Esempio semplicissimo, 30 secondi, il problema si aggrava, ok? A quel punto salta fuori la scena di progresso che nella nostra giocata veniva spontanea perché succedevano casini e Kelly Perkins diceva ci penserò io! Non proprio così, anche perché Simone era un po' più ragionato con la cosa e non sapeva bene dove andare a pigliare le cose. Però la scena di progresso serve appunto a risolvere i problemi delle scene di opposizione o altri problemi se al momento non ce ne sono di gravi, ok? Io vi ho fatto un esempio estremo, ma non è sempre così grave, ok? È un'escalation. Le scene di progresso servono appunto a porre rimedio. Cioè, esempio di prima, l'acqua è andata via, Kelly Perkins fa, va bene, chiediamo alla Terra di inviarci un carico d'acqua. Un treno pieno d'acqua. Anzi, facciamo una cannuccia gigante che arriva fino a Terra. Studiamo un progetto, impegniamo i fondi perché questo succeda. A questo punto, un po' più realistico del mio, un po' più sensato, però diciamo che propone una cosa per risolvere il problema. A questo punto entra in fase il gioco, cioè la fiction è andata avanti, naturalmente c'era stata una scena in cui Kelly seduto alla sua scrivania parla con i suoi cosi, oppure magari va in piazza e lo proclama a tutta la gente, oppure semplicemente fa le cose in segreto. Ognuno è libero di scegliere la propria fiction e andare avanti a seconda di quello che c'è stato prima e a seconda di quello che... come in un film, ok? Si va a tirare i dadi. I dadi, un semplice tiro di dadi da 6, deciderà se le cose migliorano, ok? Kelly può continuare a tirare e rischiare sempre di più. C'è un problema. Se le cose vanno malino, perché escono determinati numeri sui dadi, Kelly può insabbiare le cose, fare finta che vada tutto bene e tenersi i punti. Voi direte, vabbè, ma allora lo faccio sempre. Ma questi punti che ottieni insabbiando hanno un rischio. Se col tiro di dadi Kelly ottiene, il giocatore di Kelly ottiene un doppio uno, tutti questi insabbiamenti vengono allo scoperto. C'è uno scandalo. Si giocherà una scena in cui questo scandalo viene messo allo scoperto, questa cosa si mostra, Kelly fa la figura di merda, tra virgolette, in vari modi, e questi punti vengono persi. C'è un tot di scene che si possono fare, per cui alla fine di queste scene il numero di punti ottenuti determinerà se Kelly ha fatto un buon lavoro o un pessimo lavoro, e quindi il finale che ne deriva per la storia. Ok? È semplicissimo. Naturalmente voi potrete rischiare finché volete, dipende solo dai dadi. Alla fine la storia che ne verrà scritta, ne verrà narrata, verrà giocata, sarà diversa a seconda di come avrete gestito il rischio. Ok? Semplicissimo. Due meccaniche, una procedura che crea questo mondo della politica, diciamo un aspetto di questo mondo della politica, e ve lo fa vivere in prima persona. Io vi dico, è semplicissimo, noi non conoscevamo il gioco, abbiamo seguito le regole che c'erano sul manuale, semplicissime anche queste, ed è venuta una bellissima giocata. Sfortunatamente non l'ho registrata perché l'idea di GDR Unplugged è venuta dopo, però ne farò un'altra sicuramente, anche per farvi vedere come funziona questo gioco, anche se devo dire che è semplicissimo. Se volete giocare una storia di politica barra fantascienza tra virgolette, e comunque più o meno sopra le righe, perché poi ci mettete dentro voi le cose divertenti o meno, realistiche o meno, che volete, io vi consiglio Mars Colony assopuffamente. E se giocassi Mars Colony con i puffi? Ok, ti ho garantito una sedia. No, grande puffo lo mettiamo. Grande puffo lo mettiamo agli esteri, Orsetto. Tranquillo, vai tranquillo. Lo facciamo relazionare con Gargamella che lo mangia. No, quella è la versione vecchia. Lo trasforma in oro. Vai tranquillo. Un patto. 1 milione di posti di lavoro per i puffi. Più uno per te. Gli accordi sono accordi. Bene, sistemato anche l'orsetto che si lamentava del fatto che vi dicevo che volevo portare i puffi dalla mia parte, siamo arrivati alla parte finale di Aperitivo Ludico numero 9, edizione Mars Colony. Allora, abbiamo parlato delle minacce e delle scene, abbiamo parlato dei legami di Kelly, del partito fate quel che vi pare, si gioca in manuale leggendo, cosa posso dirvi in aggiunta su Mars Colony? Ben poco, se non di provarlo, anche perché per quel che costa e per quel che dura è un'esperienza, un gioco da provare sicuramente. Non dovrete leggere 400 pagine. L'ambientazione alla fine, tra virgolette, tranne pochi paletti fissi, la create voi con la vostra fantasia o prendendo spunto dalla situazione reale e da ciò che volete fare. Se fossi io al governo farei, bene, è l'occasione giusta per dimostrarlo. O siete solo chiacchiere di stentivo. A parte questa citazione scema, aperitivo ludico, ok, siamo in conclusione. Vi ringrazio di aver seguito fin qua, mi trovate all'indirizzo aperitivoludico.blogspot.it, mi sembra, all'email aperitivoludico@gmail.com. Io sono Marco Andretto, quindi mi trovate a email.marco.andretto@gmail.com. Spero vi sia piaciuto parlare con me e vi abbia un attimo interessato su Mars Colony, che è un gioco che a me è piaciuto parecchio, perché io personalmente ho sempre avuto quella sensazione che non sia così facile fare politica, ok? che alcune cose nel mondo che vedo in TV e attorno a me non vanno assolutamente, ma che non sia così semplice come dicono molti: ah, perché quello là non fa quella cosa che è semplice. No, non credo che sia così semplice, e Mars Colony lo dimostra una volta di più. Però credo che le cose un po' dovrebbero cambiare, ok? Del resto non si può avere il mondo dei sogni, però possiamo lavorare per cercare di rimediare un po' le cose. Bene, una cosa che potete fare per rimediare alle brutte cose che ci sono intorno è provare Mars Colony, ok? Se ciò che ho detto vi ha sollazzato, vi è piaciuto, vi rimando alla prossima settimana per una nuova puntata di Aperitivo Ludico. Nel frattempo, durante la settimana, comincerò, e finalmente questo è vero perché abbiamo la prima sessione di Monster of the Week e probabilmente pubblicherò quella, comincerò a pubblicare GDR Unplugged, le nostre registrazioni dal vivo di Giocate, ok? Quindi seguite i nostri personaggi, le nostre avventure nel mondo dei sogni a caccia dei mostri. Qui dalla redazione di Aperitivo Ludico è tutto. Buona settimana e buon gioco!